luce del mondo che hai vinto la notte, apri i miei occhi e vedrò. Ti adorerà questo cuore per sempre, Gesù, speranza sei tu. Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi, vengo a te per dirti sei il mio re. Solo tu sei santo, solo tu sei grande, solo tu sei sei santo, solo tu sei. Spagna.